Buongiorno. Grazie, buongiorno. Consentitemi un attimo di settare il mio cellulare come telecomando, se ci riesco. Nel frattempo vi ringrazio di essere qui e di aver disertato la lezione su Andreotti. Peraltro so per certo, proprio per certezza assoluta, che almeno una persona che abitualmente frequenta queste lezioni questa mattina ci ha traditi ed è andata a sentire la lezione su Andreotti, quindi sarà espulsa per sempre, diciamo, dalla comunità delle lezioni di jazz. Allora, la lezione di oggi, una lezione che appunto sotto il segno della cultura ebraica, Tzadik, che vedete nella copertina della lezione di oggi, è il nome della casa discografica di John Zorn, che è un ruolo così importante, come vedremo, sta avendo proprio per farci conoscere meglio la cultura ebraica contemporanea, anche mescolata al jazz, senza dimenticare che Tzadik nella tradizione chassidica vuol dire il giusto, e questo aspetto di orgoglio, diciamo, culturale è fondamentale nel discorso che poi faremo in conclusione. Rapporti fra jazz e cultura ebraica. Sembra un argomento di due mondi che non dovrebbero avere apparentemente nulla in comune, eppure scopriremo che hanno moltissimo in comune, soprattutto nella cultura popolare statunitense. Ed anzi, direi che per alcuni versi il rapporto tra cultura ebraica e jazz è assolutamente fondamentale e al cuore stesso del jazz e in generale, come vedremo, anche delle relazioni razziali tra afroamericani e i cosiddetti bianchi statunitensi. C'è uno studioso che si chiama Martin Fibert che ha diviso diciamo, i rapporti tra gli ebrei e gli afroamericani. Non so perché non funziona, scusate un attimo. Vabbè, faccio così. Fra gli ebrei e gli afroamericani sostanzialmente in cinque fasi. La prima fase va dal 1620 al 1909 e si basa su questa domanda. Gli ebrei hanno avuto un ruolo nella schiavitù degli africani nelle Americhe? Perché capite che è un argomento piuttosto delicato per un popolo che ha subito sulla propria pelle e per certi versi ancora subisce la diaspora e poi ha subito la schiavitù, beh, insomma, diventare poi schiavisti è una materia piuttosto delicata. Quello che possiamo dire è che diciamo che non hanno avuto un ruolo centrale. Hanno avuto un qualche ruolo minore in Brasile, soprattutto commercianti di zucchero, di canna da zucchero e quindi anche di schiavi che lavoravano nelle piantagioni di canna da zucchero, mentre negli Stati Uniti, o comunque insomma nelle colonie inglesi e più tardi Stati Uniti, il numero di ebrei che hanno posseduto degli schiavi è abbastanza ridotto, poche migliaia di persone. C'è un motivo strutturale perché le comunità ebraiche nelle colonie nordamericane erano soprattutto nelle grandi città e chiaramente gli schiavi erano necessari nelle piantagioni, luoghi dove invece la presenza ebraica era molto, molto più ridotta. Comunque diciamo che un qualche ruolo lo hanno avuto anche perché almeno fino alla prima metà dell'Ottocento la schiavitù era data come una realtà nel mondo degli Stati Uniti, una realtà ovvia, data per scontata, nessuno la metteva in discussione se non appunto gli abolizionisti. Questa fase poi in realtà ha subito dei cambiamenti e la data 1909 non è casuale, perché poi in realtà soprattutto gli ebrei di origine tedesca, che sono immigrati negli Stati Uniti nell'Ottocento, hanno avuto un ruolo fondamentale nelle battaglie per i diritti civili proprio agli inizi del Novecento per i neri. Per esempio, in particolare, i finanziatori ebrei furono fondamentali per la fondazione, proprio nel 1909, della National Association for the Advancement of Colored People, che è ancora oggi la più importante associazione di sostegno per le minoranze afroamericane, Associazione Nazionale per l'Avanzamento del Popolo di Colore, fondata dal grande intellettuale e filosofo W.E.B. Du Bois, nella fondazione di questa associazione, che ha avuto un ruolo storico importantissimo per l'avanzamento degli afroamericani negli Stati Uniti, il contributo ebraico è stato assolutamente decisivo. Ma a noi adesso in realtà interessa la seconda fase di questo rapporto fra mondo ebraico e mondo afroamericano, senza dimenticare peraltro che lo stesso Du Bois nei suoi scritti ricorda, ma su questo torneremo, che gli afroamericani hanno molto in comune col popolo ebraico e l'esperienza della schiavitù è un elemento chiave. Anzi, vale la pena di ricordare fin da adesso che non è solo l'esperienza della schiavitù agli occhi di questi intellettuali di primi Novecento ad avvicinare ebrei ed afroamericani, ma dobbiamo ricordarci che i canti degli schiavi che provavano ad alleviare la loro condizione, a immaginare un futuro migliore, cioè gli spiritual, erano basati sull'Antico Testamento. Quindi gli schiavi neri stessi negli Stati Uniti proiettavano sull'esperienza ebraica la propria esperienza e sulla soluzione, sulla liberazione dalla schiavitù, sulla fuga dall'Egitto, la liberazione dalla schiavitù, proiettavano la loro stessa speranza di liberazione. Quindi non c'è solo, come dire, una somiglianza di condizione storica fra gli ebrei nell'antichità e nello 700 e 800 gli afroamericani, ma c'è proprio una coincidenza di tematiche e anche di fonti, come appunto nel caso degli spiritual il racconto biblico. In realtà io poi tra l'altro ho preparato una cartina assolutamente illeggibile, l'ho scansionata da un importante, l'ho fatto vedere che ho, per farvi vedere che ho studiato. In realtà non riesco adesso a ingrandirla, ma vi fa capire quali sono alcuni momenti fondamentali della presenza ebraica negli Stati Uniti, perché io poi attraverso questa cartina voglio ricordarvi che il motivo per cui siamo qui a parlare del rapporto tra afroamericani e popolo ebraico è perché intorno alla fine dell'Ottocento, fino ai primi del Novecento, c'è stata un'enorme diaspora dall'Europa orientale, Bielorussia, Ucraina, in parte Polonia, eccetera, dall'Europa orientale di comunità ebraiche che fuggivano da una feroce repressione zarista, di una ferocia terribile, fatta apposta per far scappare le persone. E in effetti quasi un terzo degli abitanti, 2 milioni di persone, un terzo degli ebrei che abitavano nell'Europa orientale fuggono dall'Europa orientale, si mettono su delle barche e vanno verso le Americhe, in parte verso il Sud America, e almeno 2 milioni di individui nel giro di una trentina d'anni, pensate, noi parliamo tanto di immigrazione, parliamo di 2 milioni di individui in una ventina d'anni, 20-30 anni, giungono negli Stati Uniti. E questa è la, la seconda fase che a noi interessa esplorare, quella che Martin Fibert ha chiamato la fase degli incontri fra gli afroamericani e gli ebrei. Uno dei mondi in cui gli immigrati ebrei trovarono una collocazione e una forma di espressione fu il teatro. Qui è troppo lungo fare una storia del teatro ebraico, che è una storia molto importante, però talmente importante che appunto molti immigrati trovarono non solo artisti ebrei, attori ebrei, cantanti ebrei trovarono nel teatro un modo per esprimersi, ma il pubblico trovò nel teatro ebraico un modo per affrontare il grosso problema che poi è storicamente centrale dell'identità ebraica. Cioè io vengo da un'altra parte del mondo, mi ritrovo negli Stati Uniti, chi sono, che lingua parlo, che collocazione ho dentro questo mondo, che vita devo affrontare. Il teatro ebraico e l'umorismo, come sappiamo, che poi ha avuto un ruolo fondamentale, ha avuto una funzione centrale in questa discussione dell'identità, ma l'ho avuto anche in un'altra forma ancora, e cioè quella del minstrel show. In altre parole, Il teatro statunitense nell'Ottocento era un teatro in cui, un teatro molto grezzo, piuttosto volgare, in cui gli individui bianchi si pittavano la faccia di nero e imitavano i neri salendo sul palco, cantando e danzando e trattando i neri in un modo volgare, in un modo razzista. Rappresentavano personaggi neri che erano o fanciulleschi o vanitosi. C'era il dandy di città che si dava delle arie, oppure il contadino schiavo imbecille che non capisce niente, che corre solo dietro alle galline o mangia cocomeri dalla mattina alla sera. Questi erano alcuni degli stereotipi. Il blackface, cioè il pittarsi la faccia di nero, era un meccanismo nell'Ottocento piuttosto perverso, è la parola giusta. Parliamo di individui bianchi che sono potenzialmente schiavisti o che comunque si sentono superiori ai neri, che però sono attratti dai neri, perché sono diversi da loro. Rappresentano una cultura altra, estremamente seducente. O allora io posso apprezzare una cultura che sento come seducente se poi la considero inferiore? No, allora mi metto una maschera. Pensate alla perversione. Mi metto una maschera e impersono l'individuo che io disprezzo, perché oltre a disprezzarlo, lo amo in un certo senso, ne sono sedotto dalla musica, dalla danza, ci proietto le mie frustrazioni sessuali, immagino che questi neri siano sessualmente disinibiti mentre io non lo sono, e quindi si crea appunto un rapporto perverso nel blackface. Che ci crediate o no, una delle forme principali in cui i primi attori ebrei immigrati negli Stati Uniti si sono espressi è stato proprio il blackface. Si pittavano la faccia di nero. È un mondo molto affascinante, non è che ce ne fossero tantissimi di questi attori, però alcuni sono diventati molto famosi, come per esempio Eddie Cantor, vero nome Edward Israel Itzkowitz, che poi è diventato una star dello spettacolo americano, ma che per fare carriera nel mondo del teatro americano faceva finta di essere negro. Per loro era normale, non c'era un altro modo di fare teatro all'epoca, di fare teatro popolare. D'altra parte però, questi attori ebrei si resero conto che far fingere di essere neri aveva un vantaggio, sapete quale? Che una volta che ti sei tolto il nero fumo dalla faccia, diventi bianco. È come se loro dicessero al potere politico statunitense: guardate, noi siamo immigrati, veniamo dall'est, veniamo da zone che gli statunitensi consideravano razzialmente dubbie, Mediterraneo, Est Europa, posti insomma che, dove non è detto che questi fossero considerati bianchi. Per esempio gli italiani non erano considerati del tutto bianchi, soprattutto i meridionali, ma non solo per il colore della pelle che era più olivastro, ma proprio per la cultura da cui provenivano. Allora, di fronte a questa incertezza di essere accettati, il blackface funzionava in questo modo: mi pitto la faccia di nero, faccio la parte dell'ultimo della società, poi mi tolgo la maschera e ti dico: vedi, non sono l'ultimo della società, magari sono il penultimo, però posso accedere a dei diritti che i neri non hanno. Non vorrei sopravvalutare il ruolo del blackface nella cultura ebraica di primi Novecento, ma comunque ebbe un ruolo importante. Ma il ruolo chiave da questo punto di vista per capire il blackface ebraico è un film, uno dei più importanti film della storia del cinema, The Jazz Singer, il cantante di jazz, 1927. Perché è importante? Perché è uno dei primi, non proprio il primissimo, dei primi film sonori della storia del cinema. E la storia è interessantissima, è un film notevole. È la storia di un giovane immigrato ebreo che si accorge di avere del talento per fare il cantante di jazz. Attenzione, qui siamo alle lezioni di jazz. Lui, nel film, nel 27, jazz non era considerato quello che noi qui consideriamo jazz. Immaginate musica popolare, le canzoni leggere, il teatro, quello era il jazz, musica popolare. Quindi il cantante di jazz non nel senso di Louis Armstrong o Ella Fitzgerald, d'accordo? Come un Bing Crosby o un Frank Sinatra. Un cantante di musica leggera. Questo giovane ha questo talento, ma è ostacolato dal padre che è un fondamentalista. Il padre lo vuole a cantare nella sinagoga e considera l'andare a cantare in teatro un peccato mortale, un tradimento delle proprie radici, che l'immigrato vede come una minaccia, come noi veniamo in questa terra e rischiamo di perdere i contatti con la tradizione e tu ti metti a cantare la musica di questa terra profana invece di rafforzare la tradizione. Lui naturalmente è lacerato letteralmente tra questi due mondi. La madre cerca di fare da mediatrice, senza successo, tra il padre e Jackie, che è il personaggio interpretato da Al Jolson, e poi la storia comunque avrà un suo svolgimento anche drammatico e un suo scioglimento. Il film, da un punto di vista della storia del cinema, è molto importante perché? Perché il film è muto dall'inizio alla fine, ma nei momenti in cui Al Jolson, che vi dirò adesso chi è, apre bocca per cantare, il film è sonoro. E quindi c'è, la grande novità è che il primo film sonoro che ha fatto la storia è un film in cui c'è un ebreo che si pitta la faccia di nero e canta delle canzoni popolari. Scusate. Chi è Al Jolson? Vero nome Asa Yeltsin. È stato più famoso di Michael Jackson nei suoi anni. Davvero, non sto scherzando. L'uomo di teatro più popolare di tutti gli Stati Uniti e non solo negli Stati Uniti, un divo assoluto, che era diventato un divo proprio in quel modo, cioè l'ebreo che si dipinge il viso di nero. E scelgono lui, i fratelli Warner, anche loro ebrei, che producono il film per raccontare la modernizzazione della cultura ebraica, perché c'è un'idea produttiva dietro. I fratelli Warner scelgono Jolson perché Jolson è il divo del momento e lo portano dal teatro nel cinema. Vi faccio vedere Jolson in blackface, in questo stile che oggi ci sembra datatissimo, ma comunque all'epoca era incredibilmente popolare, nella sequenza finale del film, quando lui canta Mami, questa canzone, scritta da autori ebrei tra l'altro, in cui dichiara il suo amore per sua madre e lo fa naturalmente in blackface dentro un teatro. Mami, mami, the sunshine beats, the sunshine wet, but I know where the sunshine best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a coming. Sorry, I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy. I'd walk a million miles for one of your smiles on my mammy. Mammy, my little mammy. The sunshine's deep, the sunshine's wet, but I know where the sunshine's best. It's on my mammy I'm talking about, nobody else's. My little mammy. My heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, I'm coming. I hope I didn't make you wait. Mammy, I'm coming. Oh, God, I hope I'm not late. Mammy, don't you know me? It's a little baby. I'd walk a million miles. I wanna your smile on my mammy. Il film ebbe un successo enorme e tra l'altro su questo film sono stati versati fiumi di inchiostro letteralmente. In particolare c'è una corrente di pensiero di studiosi ebrei americani che considerano questa cosa un'assoluta vergogna. Cioè il fatto che gli ebrei abbiano letteralmente rubato l'identità e per certi aspetti, come vedremo, anche la musica agli afroamericani per sopravvivere nella società americana. Questa scuola di pensiero, che poi ha tutta una serie di risvolti anche psicanalitici, mi trova, in profondo disaccordo, e mentre ci sono degli approcci molto più equilibrati, ad esempio c'è uno studioso che si chiama Charles Musser, che ha sottolineato come, voi non ci crederete, Al Jolson in realtà presso gli afroamericani era enormemente popolare. Era considerato, nonostante questa attitudine di pittarsi la faccia di nero, che non è proprio una bella cosa, ma ripeto, era una convenzione accettata dell'epoca, gli afroamericani consideravano Jolson uno di loro, e in effetti lo era. Jolson è stato un grande talent scout di artisti neri, e soprattutto nel 25, prima di fare questo film, ebbe un grossissimo successo a Broadway con uno spettacolo che si chiamava Big Boy, nel quale fa la parte in blackface di un individuo che a un certo punto si mette a cantare degli spiritual, e lo fa con un coro di veri afroamericani che cantano gli spiritual. Quindi pensate un po', un ebreo che si tinge la faccia di nero per cantare un canto nero ispirato alla cultura ebraica insieme a un coro afroamericano. Questo per farvi capire come sia fluida, mobile, ambigua, perfino contraddittoria l'idea di identità in quegli anni. Lo è sempre in realtà, come vedremo, ma il caso di Al Jolson ci mostra come non dobbiamo pensare che da una parte ci sono i bianchi, da una parte i neri, da una parte gli ebrei, da una parte gli afroamericani, da una parte ci sono i ladri di identità, dagli altri ci sono le vittime. È tutto molto molto più ambiguo e più mescolato. Questa ambiguità, questa mescolanza risulta particolarmente chiara se andiamo a osservare la vicenda di un altro personaggio che ha iniziato la sua carriera in blackface, la cantante Sophie Tucker, vero nome Sonia Kalish. Cambiarsi il nome era legale negli Stati Uniti, e soprattutto serviva a fare un passo in avanti nell'assimilazione. Se io mi chiamo Sophie Tucker, nessuno penserà che sono ebrea e che mi chiamo Sonia Kalish, e vengo quindi dall'est Europa. Sophie Tucker fu un altro personaggio immensamente popolare. Oggi questi nomi ci suonano molto lontani, ma dovete immaginare che erano vere e proprie divi e dive del loro tempo, la cui fama ha attraversato l'oceano. Sophie Tucker era popolarissima, per esempio, in Francia e in Inghilterra. La Tucker, tra l'altro, divenne famosa nel 1911 incidendo un disco in uno stile che adesso descriverò, il Kunshouting, che si chiama Some of These Days. Ora, è incredibile che questa canzone, che la rese famosa, l'aveva scritto un afroamericano. Cioè, vedete, un nero, un compositore nero, che scrive una canzone per una cantante ebrea. Questa cantante ebrea, Sophie Tucker, cantava in uno stile che si chiama Kunshouting, che era uno stile che di solito invece si associava ai neri, e consiste in un ampio vibrato, un modo di cantare molto enfatico, qualche volta l'uso del falsetto, che è una cosa che poi si ritrova fino al soul, pensate a Marvin Gaye per esempio. E il disco è così importante che ve lo faccio sentire, dura appena 3 minuti, ve lo faccio sentire per intero. È un primo esempio formidabile di una cantante ebrea che canta una canzone che poi è diventata uno standard del jazz, Some of These Days, l'ha cantata anche Billie Holiday, scritta da un afroamericano. La registrazione del 1911, fate un po' di immaginazione. We have coded happily for quite a while, the simple life of country folk. The laddie told the girlie he must go away, on her little heart the grief most broke. Well, she said, you know I love you honey, best of all. So baby, don't go away. Il ritornello. Oh, you miss me, honey. Pensate che questo modo di cantare in realtà non era tipico solo delle cantanti bianche. Tra l'altro Sophie Tucker cominciò in blackface, ma poi a un certo punto, quando si accorse che aveva successo, decise di togliersi la maschera nera e offrirsi al pubblico col suo vero volto. Dicevo, non era esclusiva delle cantanti bianche. Le cantanti nere, con la pelle scura, cantavano esattamente nello stesso modo in quegli anni. E quando cantavano il blues, lo cantavano con lo stesso stile. Ne vedremo tra poco un esempio, ma per farvi capire quanta confusione ci fosse, confusione salutare, dico io, pensate che nella Nausea Jean-Paul Sartre parla di questo disco che avete appena ascoltato, Some of This Day di Sophie Tucker, e dice che era un disco di una cantante nera, ma il cui autore era ebreo. Cioè, rovesciando completamente la realtà. Però questa confusione è dovuta al fatto, appunto, che se poi andiamo ad ascoltare le cantanti di blues di quegli anni, ci accorgiamo, come Mamie Smith, che gli stili sono perfettamente intercambiabili. All'epoca non c'era una distinzione fra la musica dei bianchi e la musica dei neri. Il cosiddetto blues degli anni venti, delle cantanti come Bessie Smith, Mamie Smith, Ma Rainey, era in realtà un modo di fare coon shouting, a volte su dei giri di blues, a volte su canzoni come Some of These Days. Per esempio, il cosiddetto primo disco di blues, in realtà non è il primo disco di blues, è il primo disco di una cantante nera, 1920, Crazy Blues, Mamie Smith, in realtà non è un blues, è una canzone, ascoltarla bene, ed è cantata nello stesso stile con cui Sophie Tucker cantava Some of These Days. E questa sarebbe una voce nera? Yeah. modo di cantare il blues, il modo di cantare le canzoni leggere da parte delle cantanti ebraiche era praticamente lo stesso. E questo anche perché la cultura statunitense cominciava a essere imbevuta di cultura musicale ebraica grazie a questa enorme massa di persone che stavano arrivando. Notate, lo dico così en passant nel caso non ci avesse fatto mente locale, che questo arricchimento della cultura americana, che è un patrimonio dell'umanità, è il risultato degli immigrati. Vi faccio vedere una lista di compositori e parolieri della grande canzone americana di origine ebraica. Diciamo, se escludiamo Cole Porter e pochi altri, la maggior parte sono tutti di origine ebraica. A partire da Irving Berlin, il cui vero nome era Israel Isidore Beline, e naturalmente Jerome Kern, che ha un'altra storia, non viene dall'Est Europa. Mentre un altro immigrato dall'Est Europa, Jacob Gershowitz, George Gershwin, Richard Rogers, il cui primo cognome era Richard Abrahams, Harold Arlen, l'autore di Over the Rainbow, Come Rain or Come Shine, alcune delle più belle canzoni americane, si chiamava in realtà Hyman Arluck, Arthur Schwartz, avete presente Death's Entertainment? Un inno della cultura dell'intrattenimento americano, l'ha scritto un ebreo, Arthur Schwartz, Jules Stein, Leonard Bernstein, se la pronuncia giusta, Burt Bacharach, vado anche oltre il jazz, tanto per ricordarci quanto sono importanti gli autori ebrei anche nel musical, per concludere con Stephen Sondheim. E naturalmente insieme a questi compositori i parolieri, Oscar Hammerstein, che tanto ha lavorato con Richard Rogers, Yip Harburg, il cui vero nome era Isidor Hochberg, Lawrence Hart, che pure ha lavorato tanto con Rogers, Sammy Kahn, che ha lavorato molto con Jules Stein, il cui vero nome era Samuel Cohen, e naturalmente Hal David, il paroliere di Burt Bacharach. Solo questo elenco è impressionante, abbiamo coperto metà del repertorio della canzone americana. Nella musica di questi compositori è stato scoperto c'è più di una traccia della tradizione ebraica. In alcuni casi addirittura ci sono delle citazioni esplicite, in altri casi sono meno evidenti, in altri casi non ci sono affatto, ma comunque il fatto che abbiano una cultura in comune è estremamente significativo. Guardiamo qualche esempio. Perché scrivo la maschera musicale nel caso di Israel Isidore Beline, cioè Irving Berlin? Perché l'autore, uno degli autori più famosi, pensate che insomma, è l'autore di alcune delle canzoni più famose di tutti i tempi, compresa incredibilmente la cattolica White Christmas, Berlin iniziò la sua carriera imitando la musica dei neri. Non si mise il nero fumo sulla faccia, non se lo mise perché non era un attore, era un compositore. Si mise invece una maschera musicale, scrisse canzoni che lui spacciava per ragtime e il pubblico ci credette, non era vero ragtime, ma ebbero alcune di queste canzoni un successo colossale. Per esempio Alexander's Ragtime Band, 1911, lo stesso anno in cui Sophie Tucker raggiunse il successo con Some of These Days, e poi il musical Watch Your Step, 1914. Gran parte del mondo pensava che la musica nera fosse questa. E Berlin, per farsi accettare dal mondo, decise di suonare la musica che in quel momento andava per la maggiore, la musica dei neri. Fece finta di essere nero. Sapete cosa diceva? Diceva di avere un piccolo ragazzo nero nell'armadio, che lo ispirava. Non vi dico nella scuola di studiosi di estrazione ebraica che contestano il furto, cioè, sono state fatte anche delle illazioni di carattere psicanalitico e perfino di pedofilo su questa piccola, a mio avviso, innocente metafora. Il ragazzino che mi detta le melodie nere. Vi faccio sentire giusto il ritornello di Alexander's Ragtime Band, un pezzo che continua a avere un grande successo ancora oggi, è stato inciso da Ray Charles, da tanti cantanti. Qui l'ascoltiamo nell'esecuzione in stile Kunstshouting di un cantante dell'epoca, Billy Murray, proprio l'anno in cui la canzone ebbe successo, 1911, un pezzettino. honey, oh my honey, better hurry and let me end. Ain't you going, ain't you going to the leader man, ragged meter man? Oh my honey, oh my honey, let me take you to Alexander's grandstand, the brass band. Ain't you coming along? Come on in here, come on in here, Alexander's ragtime band. Come on in here, come on in here, it's the best band in the land. They can play a bugle call like you never heard before. So natural that you want to go to war. That's just the bestest band of what am. Oh, honey lamb, come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, the funny man, who's the leader of the band. And if you care to hear the Swanee River played in ragtime, come on in here, come on in here, Alexander's ragtime band. Ok, salto e vado oltre. Alcuni di questi compositori, come per esempio Berlin, a un certo punto sì, si sono anche tolti. Berlin, per esempio, ha raggiunto il successo con Alexander's Ragtime Band e Watch Your Step. A un certo punto non ha più scritto canzoni ispirate dal ragtime o con questi ritmi sincopati tipici della musica nera. Si è tolto la maschera nera. Però compositori come Berlin, come Harlan, come Rogers avevano anche un altro problema, cioè avevano alle spalle una tradizione musicale incredibilmente ricca e intensa come quella ebraica, in parte profana ma soprattutto di carattere sacro, e non se la sentivano di abbandonarla per tutto, era una fonte di ispirazione molto importante. Allora dissimulano l'elemento sacro. Sono un po' come Jackie nel cantante di jazz, cioè vogliono abbandonare il passato, perché loro adesso sono americani, guardano al futuro, però al tempo stesso non possono ignorare la loro tradizione, sono anch'essi in qualche modo lacerati. E allora dissimulano l'elemento ebraico. Prendiamo Blue Skies 1927, una canzone di Irving Berlin che tra l'altro Al Jolson canta nel film Il cantante di jazz. Noi sentiamo solo il ritornello cantato in stile Kunshouting da Josephine Baker, una cantante nera che canta di nuovo una canzone di un autore ebreo. Giusto il ritornello. C'è la strofa prima. Come vedete non suona come una voce nera, di nuovo, tutto mescolato. Good luck came knocking at my door. The eyes are gray, but they're not gray anymore. Blue sky smiling at me. Questo è il ritornello. Nothing but blue skies do I see. Two birds singing a song. Nothing but blue birds. All the day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. I noticed that the days are hurrying along. When you're in love, oh, how they're gone. Bluebirds, all of them gone. Nothing but blue skies all the day long. Bene, dietro queste melodie ci sono delle melodie di fine Ottocento, del teatro Yiddish dell'Europa dell'Est, che Berlina ha abilmente mascherato. Adesso io mi azzarderò anche nella pronuncia dello Yiddish, l'amico Gabriele Cohen, che non so se è in sala, eccolo, ciao, mi ha addestrato via email su come si pronuncia, ma il risultato finale è, insomma, è mia sola responsabilità. Rosinke Smit Mandelen è il titolo di questa canzone di fine Ottocento, che è alla base della prima parte di Blue Skies. Vi faccio risentire. Unter ihnen es wiegele, steht a chlor weiß ziegele, und os ziegele is geforn handle. Blue sky smiling at me, nothing but blue skies. La canzone originale fa Berlin, è importante questo. Ok? Invece Berlin fa questo. Eccetera. È un piccolo mascheramento. La cosa è ancora più evidente se ascoltiamo la parte B del ritornello. Qui la pronuncia si fa ancora più complessa. Der Rebe hot geheisen Freilach sein. Mi aspettavo che scattasse l'applauso, va bene. No, scherzo. Ringrazio Gabriele, anzi, per l'assistenza. Spero di essere stato un buon allievo. Che è un'altra canzone di fine Ottocento. Qui è più evidente. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. I noticed that the days are hurrying along, when you're in love, oh how they're gone. È più swingante, ma praticamente il disegno melodico è lo stesso. Ora però non dovete pensare che questa discendenza di certe melodie della canzone popolare americana dalla tradizione ebraica, in questo caso profana, sia, come dire, per forza un tentativo di mantenere il legame identitario con quel mondo. Spesso le cose possono essere molto più contraddittorie, sfumate, e credo che il caso migliore di questa contraddittorietà sia la maschera musicale che spesso George Gershwin, al secolo Jacob Gershowitz, ha indossato. Gershwin, tra l'altro, da parte degli studiosi che contestano il furto della creatività nera da parte degli ebrei, è considerato il ladro per eccellenza. Sarebbe colui che ha fatto un sacco di soldi sulla creatività degli afroamericani che, essendo discriminati per legge negli Stati Uniti, non hanno potuto accedere a quei benefici che invece hanno fatto la fortuna di Gershwin. Credo che sia una visione molto rozza e molto, come dire, molto semplicistica, perché la stessa carriera di Gershwin comincia in puro stile blackface. La sua prima canzone, Swanee, è praticamente una canzone nello stile di Irving Berlin, in cui lui rifà praticamente il ragtime, ma si conclude questa carriera con Porgy and Bess, che, attenzione, è l'opera di un ebreo di origine ucraina che nasce negli Stati Uniti, che racconta la storia di una comunità di pescatori afroamericani del South Carolina. La questione è un po' complessa perché quando Gershwin compose Porgy and Bess, compose la musica per un libretto che era nel dialetto Gullah, il dialetto dei pescatori del South Carolina, un dialetto antico che risaliva ai tempi della schiavitù. Per avere un effetto di autenticità di musica nera, Gershwin impose che i cantanti che dovevano cantare la prima di Porgy and Bess fossero neri, fossero degli afroamericani. Poi scoprì, quando andò a fare le prove, che questi il dialetto Gullah non lo sapevano. Nella sua quasi ingenuità, oserei dire, lui ha fatto un'equivalenza: questi sono neri, conosceranno il dialetto dei neri. No, quelli erano dei cantanti lirici abituati a cantare Otello, Macbeth, Aida, eccetera. Quindi fu in questo caso il compositore ebreo a spiegare ai cantanti afroamericani il dialetto gullà, perché lui era andato in mezzo ai pescatori a fare delle ricerche musicali e linguistiche. Non c'è solo questo, il problema è che poi Gershwin ha imposto per legge, la famiglia Gershwin oggi, diciamo gli eredi, impongono questa cosa, che tutte le riprese dell'opera debbono avere per forza cantanti neri. Quindi creando una specie di strana associazione fra quel tipo di musica e la pelle nera del musicista, come se quel modo di cantare dovesse appartenere solo a chi la pelle nera. E questo è un po' pericoloso perché è quasi razzista, no? Cioè impedisce per esempio a un cantante bianco di esprimersi su quella partitura. Ma c'è qualcosa di più sottile, di più ambiguo. C'è, mettiamola così, diverse aree di Porgy and Bess sono palesemente ispirate alla musica di tradizione ebraica, in particolare sacra. Attenzione, Gershwin non era religioso. Vedremo poi che uso fa di questa cosa. Per farvi capire dove voglio arrivare, vi faccio sentire un solo dei tanti possibili esempi. E mi perdonerete se scelgo per la canzone che sto per farvi ascoltare, cioè It Ain't Necessarily So, una versione che non è un granché. Lo faccio non solo per vedere se siete cresciuti estetica, a livello di percezione estetica dopo 4 anni di lezioni di jazz, se avete imparato qualcosa, ma perché sentirete che il tipo di interpretazione poi mi aiuta a farvi capire quello che voglio farvi capire. È una rielaborazione jazz piuttosto anonima, però in cui la melodia si sente molto bene ed è una voce femminile, questo che mi interessa. It ain't necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Si sente molto bene la melodia, è quello che volevo. Little David was small, but oh my. Little David, small but oh my. He fought big Goliath, who lay down and died. Little David was small but oh my. Ora vi faccio sentire la benedizione della prima della lettura della Torah. Baruchu et Adonai Hamivorach. Baruch Adonai Hamivorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hamivorach Leolam Va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. È impressionante, vero? Ma c'è un'altra cosa più impressionante. Ed è il testo di It Ain't Necessarily So. Gershwin aveva scritto la melodia di quello che avete sentito, evidentemente ispirandosi alla melodia tradizionale ebraica. Lui l'ha detto, non vado in sinagoga, non sono religioso, però non posso ignorare la tradizione musicale da cui vengo. Per un musicista era importantissimo. Lui aveva scritto la melodia di It Ain't Necessarily So prima che guardasse il libretto, cioè non aveva deciso in quale punto dell'opera metterla. L'aveva scritta, gli piaceva e l'aveva fissata. Questa è una cosa che i compositori fanno spesso. Bellini, per esempio, componeva in questo modo. Prima scriveva le melodie e poi trovava le parti del libretto adatte per andare su quel testo, per cui la melodia si adattava a quel testo. Ora, il testo di It Ain't Necessarily So, sapete di cosa parla? Il personaggio che canta, non nella registrazione che abbiamo sentito, ma nell'opera, è Sporting Life, uno spacciatore di cocaina, che cerca di portare dalla sua parte gli abitanti del villaggio. E una domenica di festa li seduce danzando e cantando in un modo molto divertente e gli dice, vabbè, voi siete dei devoti credenti, e credete a tutto quello che c'è scritto nella Bibbia. Ma la Bibbia dice, per esempio, che Giona visse nella balena. Ma vi pare possibile? It ain't necessarily so, non è per forza così. Oppure che Mosè fu raccolto dalle acque, stava in una cesta. Ma vi pare possibile? Non deve essere per forza così. Come dire, non dovete credere per forza letteralmente alla Bibbia. Credete a me che spaccio poi i miei sogni più o meno fasulli. Notate che per raccontare il fatto che la Bibbia non è credibile, Gershwin sceglie una melodia sacra. E c'è ironia? Fatta apposta? Ci crede, non ci crede? C'è un'ambiguità, lascio a voi decidere quale fosse la posizione di Gershwin, ma vi fa capire quanto sia fluida, ambigua la relazione tra la musica nera a cui Gershwin si ispira, perché è chiaro che suona come un blues, e la tradizione ebraica che somiglia al blues. E somiglia perché ci sono in effetti delle scale simili, eh? Saranno delle coincidenze, ma ci sono delle scale simili. Gershwin approfitta di questa somiglianza per creare qualcosa di estremamente ambiguo, che forse era la sua stessa posizione, diciamo così, artistica e ideologica, nel rapporto tra cultura afroamericana e tradizione ebraica, stando in mezzo e avvicinandosi ora più all'una, ora più all'altra. In questi anni di avvicinamento tra il mondo ebraico e quello afroamericano, il jazz non è stato a guardare. Intanto perché c'erano tantissimi musicisti di jazz di origine ebraica. Questo fin dai tempi di New Orleans. Ci sono importanti comunità di musicisti di New Orleans che suonano il primo jazz agli inizi del secolo. Poi ce ne sono altri che vengono da Chicago, da New York. Per esempio Benny Goodman, che è sicuramente il più famoso, almeno dei musicisti non contemporanei, tra i musicisti ebrei, la cui orchestra era piena di musicisti ebrei. In realtà c'erano musicisti di tutte le confessioni. Per esempio il batterista Jim Krupa era cattolico, andava a messa tutte le domeniche. Goodman incise diversi pezzi legati alla tradizione ebraica, compreso Blue Skies, che fu uno dei suoi primi successi. Ma io voglio farvi sentire una famosa versione di un'altra importante canzone profana, By Mir Beast to Shine, che riscritta da due autori ebrei negli Stati Uniti divenne la canzone By Mir Beast to Shine, si pronuncia quasi nello stesso modo, che cantata dalle Andrew Sisters divenne un grande successo nel 1938. Goodman ebbe l'acutezza di immediatamente tradurre questo successo vocale in un pezzo per Big Band e lo registrò sul disco. Ma la cosa fantastica è che dal vivo, a un certo punto, il pezzo diventava una specie di danza, un freilach, una danza più trascinante, di tradizione ebraica, che non aveva niente a che fare, diciamo, col carattere swing originario del pezzo. Questo tipo di approccio lo si deve anche al trombettista Ziggy Ellman, vero nome Harry Aaron Finkelman, che era uno dei trombettisti chiave dell'orchestra di Benny Goodman ed è stato uno dei più importanti jazzisti a fare da ponte fra la musica tradizionale ebraica e il jazz. Ce n'erano tanti, sia nel mondo del jazz bianco, come bianchi per così dire ebrei, sia nel mondo dei neri. Per esempio noi sappiamo che Charlie Parker andò a suonare ad un bar mitzvah, ce lo racconta lui stesso. Sappiamo che musicisti, trombettisti come Charlie Shavers potevano suonare klezmer e jazz con la stessa disinvoltura, quindi c'era questa porosità tra questi due mondi. Allora noi ascoltiamo adesso By Mir Beast to Shine, 1938, dalla famosa registrazione alla Carnegie Hall, in cui sentite a un certo punto l'orchestra di Benny Goodman diventa un piccolo gruppo klezmer. La foto che vedete viene proprio da quella serata, eh? palco della Carnegie. By me, this to shame, please let me explain. By me, this to shame means that you're grand. By me, this to shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by me, this to shame. So kiss me and say you understand. Che non va a tempo, un classico anche nel 38. Elman. Could say Bella, Bella, even say Wunderbar. Each language only helps me tell you how grand you are. Questi sono gli anni in cui gli ebrei tentano di assimilarsi nella cultura americana, si cambiano il nome, cercano di mettersi una maschera, come dire, bianca, per cui c'è la canzone poi di Yiddish che viene tradotta in inglese e diventa un grande successo. Ma quello che succede in quella sera alla Carnegie Hall è un po' curioso, cioè come se a un certo punto, per un momento, tutti si togliessero la maschera e si sfogassero e dicessero: noi in realtà siamo questo. O meglio, siamo anche questo. Tant'è vero che poi la ripresa swing della canzone, tutta composta swing, fa un po' impressione, no? Come se uno si ricomponesse dopo essersi finalmente, aver detto: oh, finalmente posso essere quello che voglio. Da parte afroamericana, dobbiamo ricordare che alcune cose che diamo per scontato forse devono essere riconsiderate. Per esempio lo scat singing, quel cantare con le sillabe senza senso tipico di Louis Armstrong e la Fitzgerald. Ecco, proprio Louis Armstrong per noi è un personaggio chiave, perché Armstrong ha dichiarato al suo amico Cab Calloway che lo scat in realtà gli era stato ispirato dal mondo ebraico. Dovete sapere che Armstrong nacque come un bambino di strada poverissimo, è riuscito a sfuggire alla morte certa, alla violenza di strada, perché c'era una famiglia appena appena meno povera di lui, una famiglia ebrea, i Karnofsky, a New Orleans, che mercanteggiava con roba trovata per strada, raccattando nella spazzatura, rivendendo gli oggetti che si riuscivano a riciclare alle prostitute. Armstrong lavorava sul carretto dei Karnofsky e i Karnofsky gli diedero le prime paghette e gli regalarono anche la prima tromba di latta. Quindi lui deve al mondo ebraico, a una famiglia ebrea, il fatto che si è avvicinato alla musica. Questa cosa lui non l'ha mai dimenticata. Tant'è vero che con assoluta disinvoltura lui indossava contemporaneamente la stella di David e il crocifisso. Non solo, ma a un certo punto ha ricordato in certe sue memorie, e lo ha confidato anche che a Cab Calloway, che i suoi amici Karnofsky, questa famiglia che lo aveva in un certo senso adottato, gli facevano ascoltare musica ebraica e lui ha preso dalla tradizione ebraica lo scat, questo modo di sillabare, perché c'è anche nella tradizione ebraica con sillabe diverse, per esempio oi oi oi è un altro modo di fare scat nel mondo ebraico. Dipende poi dagli stili, dai repertori, ci sono diversi tipi di approcci che sono raccontati molto bene, poi lo vedrete segnalato infine dal libro proprio di Gabriele Cohen, che racconta anche le differenze stilistiche tra i diversi mondi. Bene, ci sono dei dischi, tra l'altro con autori, di origine ebraica, incisi da Louis Armstrong, in cui questa eredità è abbastanza evidente. Per esempio c'è questa canzone, Load You Made the Night Too Long, in cui non capisci se lui sta facendo il predicatore nero o il cantore ebraico. Soprattutto poi quando suona la tromba, vi segnalerò una specie un break che fa, è talmente pieno di abbellimenti che non appartengono alla tradizione afroamericana, ma sono piuttosto vicini a quella ebraica, da farci capire che probabilmente questo modo di cantare è intriso di influenza ebraica. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Thank you. È impressionante, ma ancora più impressionante sentire come il suo amico Cab Calloway ha assimilato lo stile cantoriale, perché il manager di Cab Calloway era Irving Mills, un manager appunto di origine ebraica, che avvicinò Calloway allo stile cantoriale, al modo di cantare sacro ebraico. C'è una canzone che non è sacra, che adesso ascolteremo per intero, del 1939, in cui si sente lo scat di Cab Calloway sfacciatamente, apertamente modellato sulla tradizione ebraica. È un pezzo impressionante, è un pezzo di jazz ebraico cantato ed eseguito da un'orchestra di afroamericani su una composizione, la cui musica del chitarrista Buck Rahm e il testo di Irving Mills, di autori ebrei, quindi in una fusione assoluta. Mother used to sing to me a haunting little melody. Nobody knows where it came from or where it was composed. Did it a design sings a tailor as he fashions pretty clothes. A design sings a tailor as he sews and sews and sews. He's as busy as a bee, making lovely finery, things my baby loves to wear when I take her to the fair. A design sings a tailor, all it means is that's the way. When I buy the things he made her, says the tailor, a design. Chop, chop, chop. Are you hip to this jive that I'm laying to you? Snip, hip, dee doo dee doo scap, up, dee doo dee doo dang, dang, dang, dang, dee da da. Meno conosciuto degli anni 30, che è un po' la sintesi di tutto questo discorso che stiamo facendo fin qui. Così. Che si chiama Chimes the Meeting, di un direttore d'orchestra nero meno conosciuto, che si chiama Willie Bryant. Sentirete che è una specie di allegra riunione fra amici. Si chiacchiera, si canta, c'è questo swing molto trascinante, ci sono vari solisti importanti, tra l'altro c'è Benny Carter al sax alto, e poi a un certo punto dicono: ah, è arrivato Brother Goldberg, con questo nome ebraico, e si mettono a fare lo swing, oi oi oi, lo scat, voglio dire, facendo uno scat ebraico, e citano, ma questo lo sentiremo meglio poi, Kozkale Mazatov, che è una delle più famose melodie profane di tradizione ebraica. È un disco che merita di essere ascoltato perché è poco conosciuto ed è una perfetta sintesi di jazz e anche di scat ebraico. Now, brothers and sisters, we are gathered here. Yeah. And I want all you brothers and sisters to contribute heartily. I'm sorry, brother. I ain't got no time. Yeah, well, I'm glad I found you out in time. Now, Brother Wilson, if you'll just tear out and this meeting will begin, we will get someplace. Tear right out. Yeah. We are gone. Happy Ma! I know you're happy. Woo! You is drunk. That's what's the matter with you. Oh, Brother Goldberg. Poi citano. I'm so glad and so thankful that you brothers and sisters contributed so nicely, because you realize that I need it. Of course, I need more. Just come back next Saturday night, maybe I'll get straight. So for the time being, I want to say thank you and good night. Uh-huh. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Good night, Sister Porkchops. Yeah. Ecco, questa allegra combriccola di amici ebrei e afroamericani a un certo punto appunto cita questa canzone. Vi faccio sentire giusto il tema suonato da un grande clarinettista di origine ebraica, Dave Tarras, la sua band. Poi Giordano dice, ma che razza di roba stiamo a fare? Dice, più o meno, ci commenta sopra in modo giocoso. Anche Billie Holiday, per concludere questa panoramica degli anni 30, ha avuto uno stretto rapporto col mondo ebraico. Da un lato lo sappiamo perché uno dei suoi pezzi forti era Strange Fruit, che era un testo scritto da un poeta di origine ebraica, Lewis Allen, che non era altro che lo pseudonimo di Abe Maharepol. E quindi c'era già questo aspetto. Ma in realtà è venuto fuori negli anni 90, se non ricordo male, un nastro in cui Billie Holiday è a casa dei coniugi Dufty, il marito, diciamo, questo signor Dufty sarà poi colui che l'aiuterà a scrivere l'autobiografia. In casa c'è Tony Scott, che non è quello che vedete al piano, ho scelto la foto per darvi un'idea dell'atmosfera che c'è. Sono a casa di amici, stanno cercando di far divertire i figli di questi amici. C'è Tony Scott al piano, a un certo punto Tony Scott, non si capisce se lui o comunque sul suggerimento di Billie Holiday, cominciano a cantare Some of These Days, il pezzo di Sophie Tucker. Ma ecco che Billie Holiday a un certo punto, forse proprio memore del fatto che si cantava Some of These Days, la canzone di Sophie Tucker, attacca My Yiddish Mommy, che è un'altra canzone, questa è una canzone degli anni 20 in realtà, di tradizione ebraica. È come se a un certo punto lei si fosse immedesimata in Sophie Tucker e cantasse anche My Yiddish Mommy, che fu incisa e cantata da Sophie Tucker. E la canta e la, con assoluta proprietà di, come dire, stilistica, accompagnata da Tony Scott al pianoforte, quindi ci fa capire che lei aveva una perfetta padronanza di questo tipo di repertorio, ci stava completamente dentro. Una cosa fatta in casa, eh? Parla ai bambini con cui sta giocando. Notate che anche Tony Scott conosce bene il pezzo, che l'accompagna in maniera impeccabile al pianoforte. Siamo arrivati alla terza fase nel rapporto fra gli afroamericani e gli ebrei, e questa terza fase ha in mezzo il trauma, a usare un eufemismo, dell'olocausto, e una, in conseguenza di questo, una percezione da parte degli ebrei americani che probabilmente l'assimilazione non sarà mai perfettamente compiuta, non saranno mai bianchi completamente. C'è anche la percezione di essere straordinariamente fragili, ma questo negli Stati Uniti, ovviamente gli ebrei non statunitensi lo sapevano già da tempo, ma chi si trovava negli Stati Uniti e pensava di essere in una condizione di privilegio si accorge che questo privilegio in realtà è estremamente precario, sia come accettazione da parte della società bianca americana, sia come accettazione da parte del mondo in generale. A questo senso di fragilità si aggiunge anche la percezione, una sorta di percezione di inadeguatezza dovuta, lo sappiamo, alle immagini del processo Eichmann che furono mandate anche dalla televisione americana, che fecero percepire a molti intellettuali ebrei il disagio di non essere stati all'altezza di una simile tragedia, antropologica, culturale, politica. Questo ha fatto sì che molti intellettuali, scrittori, produttori, musicisti, ebrei, poeti, si siano, come dire, allontanati dalla loro cultura d'origine e non è che si sono rimessi la maschera nera, questa volta si sono proprio rivolti al mondo degli afroamericani, vedendo in quel mondo un modello di salvezza, un modello di reazione culturale. È come se avessero detto: guardiamo come hanno fatto gli afroamericani a sopravvivere alle tragedie della storia. Questo aveva anche a che fare con un rifiuto peraltro generazionale, parliamo del dopoguerra, dei primi anni 50, quando i giovani bianchi si sentono, proprio anche in conseguenza della Seconda Guerra Mondiale, si sentono distanti dai loro genitori, sono gli anni poi della rivolta del rock and roll, eccetera. Ecco, in questo clima molti intellettuali, produttori, ripeto, artisti ebrei, guardano in maniera profondamente simpatetica, profondamente empatica al mondo afroamericano, addirittura desiderano quasi farsi passare per neri. E questo è un aspetto chiave, il passing. Cos'è il passing? Ne abbiamo parlato in una conferenza forse un anno scorso, non mi ricordo. È quando qualcuno si fa passare per qualcun altro, di un'altra, tra virgolette, razza. Le razze non esistono, uso il termine con quattro paia di virgolette. Quando uno si fa passare per un'altra religione, oppure di avere un altro colore. Bianchi che si fanno passare per neri, a prescindere dal colore della pelle. E questo passing è particolarmente forte tra gli anni 40 e 50 nel mondo ebraico. L'artista, il musicista, ce ne sono tanti di musicisti che per esempio da adolescenti coltivano il desiderio di essere neri, di fuggire dalla famiglia ebraica, di fuggire dalle tradizioni ebraiche e di abbracciare l'identità nera. Uno di questi è Artie Shaw, il grande clarinettista. Lo dice lui stesso: io da ragazzino andavo in giro con i neri e volevo essere come loro. Uno che poi cambierà idea è per esempio il trombettista Max Kaminski. Ogni tanto si blocca. Anche lui, un altro musicista che abbraccia l'identità nera e fa il jazzista perché vuole essere nero. E poi a un certo punto cambia strada, cambia idea. E poi c'è, scusate, sono andato troppo avanti, chiedo scusa. E poi c'è il caso di passing più clamoroso. C'è quello di Milton Meserov, un mediocre clarinettista, mediocre dal punto di vista musicale, e il signore seduto al centro, che a un certo punto decise che lui sarebbe stato nero. Come fa un ebreo bianco a decidere di essere nero? Ci sono due strade che prendono questi artisti o intellettuali. Uno è la prossimità fisica. Cioè io divento nero perché sto con i neri, in una società polarizzata in cui per legge i bianchi devono stare in certe case, i neri da un altro quartiere, i bianchi usano dei ristoranti, i neri altri ristoranti, i bianchi certi alberghi, i neri altri alberghi, io decido di vivere dalla parte dei neri. C'è uno studioso americano che ha scritto un libro su questo argomento e l'ha chiamato Near Black, che vuol dire, doppio senso, vicino ai neri e quasi neri. È perfettamente una formula perfetta da questo punto di vista. Non solo, Nesterov adottò anche un secondo approccio, il linguaggio, lo slang. Cominciò a parlare come i neri, non solo andò a vivere ad... Ah, c'è un terzo aspetto, sposare una donna nera. Vi ricordo che in molti stati, negli Stati Uniti, il matrimonio fra bianchi e neri era proibito per legge. Non a New York, lui però riuscì appunto a New York a sposare una donna nera, andò a vivere ad Harlem e a parlare con i neri. C'è da chiedersi perché un personaggio così stravagante fosse accettato dai musicisti bianchi. Ci sono due ragioni. Uno, era un grosso spacciatore di marijuana e hashish. Si è fatto anche la sua galera e quindi forniva roba a volontà. Non, voi ridete, ma è fondamentale questo aspetto. Due, e comunque per quanto ti dichiari nero, hai sempre la pelle bianca. Questo vuol dire che per lui, per esempio, procurarsi delle serate, procurarsi delle sedute di registrazione... Lui ha fatto dei dischi meravigliosi, non per merito suo, con Sidney Bechet, Frankie Newton ed altri, era per lui più facile. È chiaro che un nero discriminato va dietro a un personaggio del genere, perché comunque ne trae dei benefici. Nesterov, proprio a proposito di questa questione del linguaggio, arrivò addirittura a scrivere un'autobiografia nel 1946, è stata tradotta anche in italiano ed è stata ristampata di recente col titolo Ecco i blues. Negli Stati Uniti uscì nel 1946, in Italia 10 anni dopo era già stata tradotta. Ancora oggi si trova in libreria. Ecco i blues. Questa autobiografia ci parla del suo passing. Questa autobiografia è stato un libro fondamentale per gli intellettuali ebrei degli anni 50. Perché mostrava come essere neri. Ed è all'autobiografia di Nesterov che si ispira, per esempio, Norman Mailer, quando scrive un famoso pamphlet, The White Negro, 1957, in cui spiega cosa sono i beatnik, questi nuovi artisti ribelli. Come ci si ribella in una società così intrisa di potere bianco? Come faccio io ebreo a ribellarmi? Faccio finta di essere nero. Sentite cosa scrive in The White Negro Norman Mailer, nella sua prosa molto molto enfatica. Le garanzie di sicurezza di cui gode la massa di bianchi, la figura rassicurante della madre, la certezza di avere casa, lavoro e famiglia, non rientrano nemmeno per scherzo nell'orizzonte di milioni di negri. Sono impossibili. Il negro ha la più semplice delle alternative, vivere una vita di perenne sottomissione o una di pericolo sempre incombente. In uno stato di cose in cui la paranoia è indispensabile alla sopravvivenza quanto il sangue, il negro era rimasto vivo, e aveva cominciato a trarre energia dalla soddisfazione dei suoi bisogni fisici ogni volta che poteva. Notate che c'è più di una sfumatura di tipo primitivista. Il nero è primitivo, i bisogni fisici. Sentendo in ogni fibra del suo essere che la vita è guerra, nient'altro che guerra, il negro, con le dovute eccezioni, ha potuto raramente permettersi le inibizioni sofisticate della civiltà. E così ha fatto sua, per sopravvivere, l'arte dei primitivi. Ha vissuto nello sconfinato presente, sempre in attesa delle avventure emozionanti del sabato notte, accantonando i piaceri intellettuali per i più urgenti piaceri fisici, il nero come una specie di animale fisico. E nella sua musica ha dato voce al carattere e alla qualità della sua esistenza, alla sua rabbia come le infinite variazioni di gioia, lussuria, languore, grugniti, crampi, angustie, grida e disperazione, del suo orgasmo, perché il gesto è orgasmo, è la musica dell'orgasmo, buono o cattivo che sia, e come tale ha parlato a un'intera nazione, e ha parlato, sia pure in una ripulita versione popolare, di condizioni esistenziali immediate a cui alcuni bianchi potevano rispondere. È stato in verità una forma di comunicazione artistica, in quanto diceva: io sento questo, ora lo senti anche tu. Così è nata una nuova razza di avventurieri, i beatnik, avventurieri urbani che uscivano di notte come alla deriva in cerca di azione e che avevano un codice negro da applicare alle loro gesta. Lipster aveva assimilato le sinapsi esistenzialiste del negro e ai fini pratici poteva essere considerato un negro bianco. Questo testo è il testo di base di tutta la cultura beat degli anni 50. Io ebreo mi ribello alla società, chi prendo come modello? Il nero. Ma come faccio a prendere il nero come modello? Lo considero un primitivo, un essere tutto carne, tutto sesso, tutto orgasmo, tutto fisico. Questo desiderio di essere neri non è solo tipico del mondo intellettuale, ma trova uno sfogo che poi creativamente è stato a dir poco eccezionale, soprattutto nel mondo del soul e del rhythm and blues. Noi vediamo questa attitudine al passing, a farsi passare per nero, per esempio nei grandi produttori di dischi di soul e rhythm and blues. Su tutti, prendo un esempio, ne potrei fare 20, Jerry Wexler, produttore dell'Atlantic, è, come vedete da questa foto, uno degli artefici del successo di alcuni dei più grandi artisti neri di tutti i tempi, per esempio Aretha Franklin. Wexler si considerava nero, da ragazzo voleva essere nero, non aveva altra ambizione, quindi è andato a finire a lavorare con musicisti neri imponendo la sua visione di cosa sono i musicisti neri, come Mahler ha la sua visione di cosa sono i neri. Se volete un esempio di cosa questo voglia dire, andiamo a vedere cosa succede quando Wexler intervenne nella produzione di un disco, ne abbiamo già parlato in un'altra conferenza, riprendo brevemente quell'aspetto, di un disco del 1952, è uno dei dischi di base del successo del rhythm and blues. La protagonista è Big Mama Thornton, una cantante dall'aspetto, come vedete, molto energico e dalla voce molto energica. La canzone l'avevano scritta, qui sono un po' più adulti, due adolescenti, avevano 17 anni, poi scriveranno alcune delle più importanti canzoni del pop e rock americano, per esempio sono dietro tutti i successi di Elvis Presley. Jerry Leiber e Mike Stoller, indovinate, sono ebrei. Entrambi erano dentro il rhythm and blues, volevano scrivere canzoni nere, ne scrivono una e portano Hound Dog in studio. Il produttore in studio è un giovanissimo Jerry Wexler. Danno la canzone a Big Mama Thornton, la quale comincia a cantarla come se fosse una crooner. Voce soffusa, morbida, alla Nat King Cole. Wexler ferma tutto, dice ferma, ma che stai facendo? Ma sei pazza. Tu la devi fare alla negra, devi urlare, devi farla blues, cattiva, perché i neri sono così, sono aggressivi, hanno questo senso del blues viscerale, di pancia. La Thornton, che era pagata per questo, si adegua e canta la musica nera come Wexler vuole che sia la musica nera. You ain't nothing but a hound dog. Eccetera. Vedete quanto è complesso il gioco di specchi dell'identità? Qui abbiamo i neri che cantano la musica nera per un mercato di afroamericani, il cui stile esecutivo è modellato dall'immaginazione, dall'immaginario che dei giovani autori ebrei hanno del mondo nero. E il loro immaginario è sostanzialmente modellato da un bisogno di fuga dalla loro cultura per immergersi in quella nera. Vogliamo parlare di Aretha Franklin e Natural Woman? Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day. Day I met you, life was so unkind. eccetera. Non solo Jerry Wexler è il produttore di questo straordinario disco, ma gli autori sono due ebrei, Jerry Goffin e Carole King, vero nome Carole Klein. Sono loro che hanno modellato questa atmosfera gospel e hanno trovato nella voce di Aretha Franklin un interprete eccezionale. Capite come sono mescolate le cose? In fondo quello di Wexler, di Carole King e Jerry Goffin è una sorta di passing, di farsi passare per neri. E utilizzare, lo dico in senso non strumentale, ma insomma di abbracciare quella cultura per poter esprimere la propria visione del mondo. E questo in perfetta unione con i neri. Vi ricordo che in quegli anni questa unione ha un significato anche politico, perché i maggiori attivisti bianchi che lottano a fianco di Martin Luther King sono tutti ebrei. La maggior parte dei volontari che si prendono le botte della polizia, i morsi dei cani, la violenza razzista del Ku Klux Klan, a fianco dei neri, nei Freedom Riders per esempio, nel sud degli Stati Uniti, nel 63, sono ebrei. Siamo tornati a una situazione affine a quando Dubois fondò l'NAACP, ad una comunione di intenti, ad una vicinanza di intenti. Chiuderei il nostro capitolo sul passing ebraico con la cantante che più di tutti ci sembra nera e che invece è un'ebrea inglese. Giusto un minuto di omaggio a questa grande artista. Giusto un frammento, ci sarebbe tanto da dire su come la produzione costruisce un sound anni 60, un effetto soul, un po' revival, ma la cosa chiave appunto è che questa artista ebrea inglese si cala perfettamente in un ruolo, diciamo, da cantante nera. È una specie, detto banalmente, una specie di Sophie Tucker contemporanea, né più né meno. Uno la sente e potrebbe dire: chi è questa cantante nera? Questo momento di fusione fra il mondo afroamericano e il mondo ebraico si manifesta anche in altri aspetti della professionalità. Per esempio, la maggior parte dei manager, di musicisti di jazz in quegli anni sono ebrei. La domanda è: perché? Perché la maggior parte dei manager del blues revival sono ebrei? C'è un motivo storico. Stiamo parlando di un mercato, in particolare quello del jazz, scusate il termine, un po' sfigato, dove non si fanno tanti soldi. Negli anni 20, i primi anni 30, quel mercato era vuoto, non c'era niente. Non c'erano manager afroamericani, non c'erano manager di altre etnie interessati a fare quel tipo di lavoro. Diversi personaggi di provenienza ebraica che avevano esperienza nella musica o non avevano esperienza nella musica, trovarono l'occasione per inserirsi in una nicchia di mercato, diciamo così, di lavoro, lasciata libera da altri. E siccome tradizionalmente, lo vedremo nella slide successiva, gli artigiani, i commercianti ebrei avevano, grazie alla loro esperienza secolare, avevano saputo tessere una serie di rapporti, relazioni, amicizie, scambi, contatti, questo è quello che fa un manager. Conosce un sacco di gente, mette in collegamento persone differenti, trova le occasioni. Raramente fa un sacco di soldi, molto raramente. Qualcuno l'ha fatto, forse Joe Glazer, Irving Mills, George Wine, ma gli altri no. E poi, lasciamo da parte, non è questa la sede ovviamente, ma tanto per essere per sottolineare, lasciamo da parte i cliché. Qui non ci sono sfruttatori e sfruttati. In mezzo a questi nomi ci sono personaggi non al limite, che sono personaggi penalmente perseguibili, veramente orrendi, come per esempio Joe Glazer, che fu il manager di Louis Armstrong, e personaggi che i musicisti hanno sempre adorato perché di straordinaria correttezza, come Norman Granz o Harry Colomby, a cui si deve letteralmente la rinascita di Thelonious Monk, senza il quale Monk oggi sarebbe ancora un dimenticato. Questa capacità relazionale si vede anche tra i manager di locali. Tutti i più importanti locali di Chicago e New York erano gestiti da ebrei. Forse il caso più curioso è il penultimo rigo. Il papà di Michael e Randy Brecker era il gestore del Roseland Ballroom, una delle sale da ballo più importanti di New York, dove negli anni 20 suonava Fletcher Anderson con Louis Armstrong. Quindi una genia, diciamo così, di musicisti. Fino a Max Gordon, che gestiva fino a qualche anno fa il Village Vanguard. E poi i principali produttori discografici di musica nera sono ebrei, soprattutto nel mondo delle etichette indipendenti. Lì c'è una lista che non finisce più. Di nuovo, perché? Perché, per esempio, ci sono due motivi. Il primo è che i manager afroamericani, i produttori afroamericani non ce la facevano, sapete perché? Perché avevano un problema di distribuzione. Producevano il disco. Poi il disco non riusciva a circolare perché c'erano mille ostacoli posti agli afroamericani. Quindi per fare il disco non tornavano indietro attraverso la distribuzione e l'etichetta falliva rapidamente. Oppure aveva una distribuzione regionale. Invece molti di questi produttori, per esempio i fratelli Chess, che erano in realtà, si chiamavano Zick, erano di origine polacca, oppure Art Rupi della Speciality, era gente, credetemi, che di musica non sapeva niente. Cioè per loro vendere le patate e vendere Muddy Waters era la stessa cosa. Però sapevano come vendere le patate e Muddy Waters. Per esempio avevano già stabilito tutta una serie di relazioni a livello di jukebox in piccoli localini, quindi sapevano che una volta prodotto il disco avevano la distribuzione. Quindi dobbiamo a questi personaggi, alcuni dei quali di nuovo al limite della legalità come i fratelli Chess, altri che sono benefattori dell'umanità come Milt Gabler per esempio, che tra l'altro è stato uno dei padri del rock and roll, perché è stato il produttore di Rock Around the Clock, ma il mondo, il rapporto fra ebrei e rock è tutta un'altra storia. Vado verso la conclusione, salterò qualche slide perché è un po' tardi, e voglio ricordarvi che negli anni 60, in questo momento di profonda vicinanza tra neri ed ebrei, ci sono stati anche dei dischi di musicisti ebrei, di jazz, che hanno celebrato questo incontro. Non faccio qui la lista dei jazzisti ebrei, che è infinita. Faccio un nome su tutti, Stan Getz. Ma vorrei ricordare che Shelly Mann, nel 1963, che è un anno chiave, sentite, 63, siamo sempre lì, produce un disco, My Son the Jazz Drummer, che poi adesso si trova in CD col titolo Steps to the Desert. È una cosa che ho scoperto dopo aver pagato l'LP Fior di Quattrini su Amazon. Poi ho scoperto che esisteva in CD con un altro titolo, e voi ci ridete, ma è così. E dentro, apposta, ci sono il trombettista ebreo Shorty Rogers, sembra come le barzellette, no? ma è fatta apposta. Il sassofonista nero americano Teddy Edwards, il pianista inglese bianco Victor Feldman, vibrafonista anche, il bassista italiano Al Viola e il bassista ebreo, Al Viola, che si alterna col bassista ebreo Monty Budwig. Quindi volutamente Mann mette insieme musicisti di provenienza, tra virgolette, tra quattro paia di virgolette, etnica differente. Il repertorio di questi dischi che omaggiano la tradizione ebraica non è più sacro, è principalmente profano, per i motivi che vi dicevo prima. Noi ascoltiamo, almeno da questo disco, un brano che si chiama, è un'altra canzone abbastanza nota della recente tradizione ebraica, Hava Nagila, che suona così. Il 63 è anche l'anno in cui esce, qui andiamo più velocemente, un altro disco importante di un altro jazzista ebreo, Terry Gibbs, che avrebbe voluto far uscire il disco, tra l'altro col suo nome vero, Julius Gubenko, ma poi la casa discografica si oppose. Saltiamo, ci sono varie, tra l'altro qui c'è anche un gruppo klezmer che si mescola ai jazzisti con il clarinettista Sam Musiker, personaggio importantissimo. Volevo farvi sentire My Yiddish Mommy, ma lo saltiamo. Passo rapidamente plano su Bob Dylan, perché Bob Dylan è un esempio perfetto di come il blues revival e il blues elettrico della seconda metà degli anni 60 fosse pieno, cioè pieno, è stato promosso dai musicisti ebrei bianchi. Dylan su tutti, la cui band che suonò sia a Newport nel 65 sia nel disco Highway 61 Revisited era una band di musicisti ebrei con il chitarrista Mike Bloomfield, i due tastieristi Al Kooper e Barry Goldberg, che sono proprio alla base del blues revival. Qual è il motivo? Il motivo è quello che vi ho detto prima: questa è la generazione che rifiuta la propria storia a favore di una identificazione col mondo afroamericano. Solo che invece di pensarla come Norman Mailer, per cui i neri sono i primitivi a cui mi devo identificare, i neri qui sono una forma di rivolta, di riscatto, di capacità di reagire alle avversità della storia. E questo è il motivo per cui personaggi di origine ebraica come Bob Dylan hanno avuto un ruolo così importante. Arriviamo ai tempi più recenti. Sono gli anni tra la fine degli anni 60, il ventennio, fino alla fine degli anni 80 quasi, potrei andare più avanti, di una sostanziale allontanamento fra il mondo ebraico e quello afroamericano. Che succede? Succede che gli afroamericani sono troppo presi dal rivendicare non più i diritti civili che hanno avuto grazie all'aiuto degli ebrei, ma a rivendicare adesso il potere, cioè vogliono raggiungere le leve del potere, vogliono avere più soldi, giustamente, cioè hanno avuto i diritti civili ma continuano a essere discriminati. Non c'è stato nessun cambiamento. E quindi c'è una specie di rabbia nazionalista, quella delle Black Panthers per capirci, che si separa dal mondo bianco, chiunque essi siano. E poi negli anni Ottanta c'è un rigurgito, uno sgradevolissimo rigurgito antisemita che in realtà non si è mai sopito nel mondo afroamericano, è sempre stato sotto pelle nel mondo afroamericano, un rigurgito antisemita che si trova soprattutto nelle parole del leader più sgradevole della comunità afroamericana, che è ancora attivo, Louis Farrakhan, che non aveva fatto nessun mistero del suo antisemitismo. Ma questo antisemitismo si sente nelle parole dei gruppi rap come i Public Enemy e perfino aleggia in qualche parola risentita di Wynton Marsalis, quando se la prende con certi che sono sempre presenti da tutte le parti, non si sa mai perché. Insomma, non sono anni belli, ci sono anche problemi politici e la politica di Israele nei confronti dei palestinesi che allontana i neri. In un mondo degli afroamericani che è apertamente terzomondista e rivendica l'indipendenza dei popoli oppressi, la politica più bellicista di Israele nei confronti dei paesi arabi, in particolare nei territori occupati, non aiuta, diciamo, un senso di avvicinamento e identificazione. Tuttavia nel mondo ebraico succede qualcosa, soprattutto negli anni 90, e questo qualcosa ha a che fare con in particolare una quinta fase, quella appunto attuale, che ho chiamato un nuovo incontro, che è legata soprattutto alla figura fondamentale di John Zorn, perché ogni tanto non funziona, va bene, che pubblicò negli anni 90 un manifesto della cosiddetta Radical Jewish Culture, della cultura ebraica radicale, che consiste sostanzialmente, finalmente, ormai dopo decenni, di una riappropriazione esplicita della tradizione ebraica, dell'identità ebraica, ma un'identità intesa non in senso stabile, definito. Le identità stabili e definite sono sempre una fandonia, sono sempre una finzione, l'abbiamo visto continuamente oggi, ma invece l'idea è quella di riappropriarsi con orgoglio di tutto ciò che fino a quel momento veniva tenuto nascosto, l'essere ebrei con la propria storia e la propria cultura. E che quale cultura può fare da modello all'idea di riappropriarsi in modo contemporaneo di una tradizione? Il jazz. Il jazz si basa su questo. L'idea di mantenere viva una tradizione suonando musica contemporanea. Quindi a personaggi come John Zorn e tutti i vasti esponenti, la ricca, come dire, ricco parterre di musicisti della Radical Jewish Culture, il jazz è un punto di riferimento, non l'unico, attenzione, non dovete identificare questo tipo di movimento solo col jazz, perché c'è dentro il klezmer, c'è dentro un recupero classico, nel libro di Gabriele Cohen c'è un'ampia casistica, un ampio ritratto di questo mondo così variegato, ma il jazz sicuramente ha un ruolo fondamentale, anche lì dove si evoca per esempio il mondo classico, ma anche nei titoli. Il gruppo più importante di John Zorn si chiama Masada, sapete, la famosa fortezza che fu il teatro di un suicidio di massa durante nel 70 durante la prima guerra ebraico-romana e di un suicidio di massa degli ebrei assaliti dall'esercito romano. Questo trio è una delle tante formazioni che assume il nome Masada, c'è di solito un quartetto di John Zorn, e c'è un disco bellissimo che vi consiglio, che si chiama Bar Kokhba, che invece è l'eroe della seconda guerra, 135 d.C., della seconda guerra romano-ebraica, Soccò il nome di una città, anzi due città per essere precisi, una registrazione del 94, vi faccio sentire per concludere questo frammento, questo brano molto breve, che ha un suono classico ma un tipo di approccio all'improvvisazione che è quello radicale contemporaneo. Qui Zorn è solo compositore del pezzo. Il mondo della radical Jewish culture ha tanti personaggi, il trombettista Steve Bernstein, giusto vi faccio vedere il viso familiare di Hurricane, che per esempio nelle sue riletture della musica di Gustav Mahler fa venire fuori proprio l'aspetto ebraico della musica di Mahler. Ma io davvero stavolta concludo con il passaggio opposto, cioè un nero che suona musica ebraica, per mandare all'aria tutte le tradizionali divisioni, pseudo-divisioni identitarie, e anche ricordarci quali sono i rischi di fare questo genere di cose, perché Don Byron fece negli anni 90 un importante disco in cui suonava la musica di Mickey Katz, che è un compositore molto molto importante della cultura ebraica americana, e in virtù anche del fatto che il clarinetto, per esempio, non l'abbiamo detto, ma Benny Goodman è un ottimo esempio, il clarinetto è uno strumento che avvicina molto le due tradizioni musicali, perché lo si suona in uno stile che ha degli elementi di sovrapposizione. E così, sentite come in maniera molto filologica e al tempo stesso con una certa libertà, il gruppo di jazz di Don Byron suona il klezmer di Mickey Katz. Byron ha smesso di fare queste cose perché a un certo punto l'ortodossia ebraica gli ha detto no, però un nero che suona questa cosa non si può fare, e lui stesso ha detto non volevo essere etichettato come il negro che suona la musica ebraica. Questo vi fa capire come l'identità abbia tante trappole e tanti problemi. Siamo arrivati all'ultima slide, e l'attualità, il dialogo, il tentativo di ricucire il dialogo fra la comunità afroamericana e quella ebraica è tornata al centro della politica americana attuale. Bernie Sanders, ebreo, che come sapete è in corsa per la presidenza degli Stati Uniti, ha un punto debole, è che gli afroamericani non votano Bernie Sanders. E allora Bernie Sanders a New York è andato a incontrare Al Sharpton, un importante e discusso anche leader della comunità afroamericana, per trovare il modo, in vista delle primarie a New York, di accogliere e di attrarre il voto afroamericano. Questa foto ci mostra, come dire, la necessità e il desiderio di queste due comunità di riavvicinarsi. Quindi siamo in piena attualità, e in effetti poi tutta la conferenza è una specie di messaggio subliminale per ricordarvi che dobbiamo andare a votare. Grazie.